perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quello che sapevo l'ho scritto, insomma, gli elementi essenziali li ho descritti nel libro. Io ho più di 160 processi, quindi insomma, sono abbastanza abituato a difendere quello che scrivo, quindi sono abbastanza tranquillo. Usciamo da questa ipocrisia. È abbastanza naturale che un personaggio politico si occupi delle vicende bancarie ed economiche che riguardano il proprio territorio. È assolutamente normale, no? Anzi, mi stupirei del contrario. Però un conto è occuparsene e magari rappresentare ad un banchiere importante la propria così apprensione, il fatto che naturalmente sono vicende che coinvolgono azionisti, obbligazionisti, depositanti. Diverso è ovviamente esercitare delle ingerenze o delle pressioni. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha detto oggi Ferruccio De Bortoli a Radio 24. Oggi c'era la presentazione del suo libro e ieri già l'anticipazione di questo suo ultimo libro intitolato Poteri Forti. Sapete che dibattito politico ha scatenato, che polemica, che scontro soprattutto politico ancora una volta, in particolare tra Movimento 5 Stelle e PD, perché emergono rivelazioni che riguardano l'allora ministra Boschi, oggi sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, che avrebbe fatto, secondo quanto afferma De Bortoli nel suo libro, avrebbe fatto una richiesta all'ex amministratore di Unicredit Ghizzoni di acquistare Banca Etruria per salvarla. Sapete che la ministra Boschi ha smentito ieri, ha smentito oggi, il Movimento 5 Stelle va all'attacco, ne chiede le dimissioni. De Bortoli ha detto la sua oggi durante la conferenza stampa e appunto anche a Radio 24. Ne parleremo dopo, ma insomma è una vicenda che crea dell'altra fibrillazione, diciamo, nel dibattito politico, perché non ci sono per il momento rilievi penali, ma sicuramente diventa una questione di opportunità, se fosse vero. Dopodiché parleremo anche, fra le notizie principali questa sera, della rivoluzione che riguarda il divorzio, il diritto di famiglia. L'assegno non sarà più dato su un criterio di mantenimento del tenore di vita matrimoniale, ma basato sul criterio dell'autosufficienza, della valutazione dell'indipendenza. Insomma, un sacco di cose importanti avremo di cui parlare questa sera. E voi, per interagire, per dire i vostri commenti, le vostre opinioni, avete sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Come sempre, prima di approfondire i vari temi con gli ospiti, io però vi racconto in sintesi la giornata. Il caso Unicredit, Banca Etruria, Maria Elena Boschi torna a difendersi e a smentire presunte ingerenze. De Bortoli, alla presentazione del suo libro, dice: sono tranquillo e sicuro delle mie fonti. Divorzio, cambiano i parametri per l'assegno, non sarà più legato al tenore di vita matrimoniale ma alla valutazione dell'autosufficienza. L'incendio doloso del camper a Roma, a rogo sono state uccise tre sorelle rom, forse una vendetta tra nomadi, Mattarella dice un crimine fuori dal genere umano. Legge elettorale, segnali di apertura, Forza Italia e Movimento 5 Stelle danno il via libera per l'estensione dell'Italicum al Senato. L'immondizia a Roma, la sindaca Raggi si difende, in campo intanto una task force contro i rifiuti in strada, Regione e Ministero però contro la sindaca dicono non dà soluzioni. Scuola, intesa tra il Ministero dell'Economia e il Ministero dell'Istruzione, ci saranno 52.000 assunzioni. Stati Uniti, Trump si lura Comey, capo dell'FBI che indagava sul Russia Gate, licenziato, dice il presidente americano, perché non stava facendo un buon lavoro. Sport, Giro d'Italia, quinta tappa a Gaviria, Jungels resta in rosa e per la Champions sono in campo Atletico Madrid, Real Madrid. Partiamo quindi dal caso Unicredit, Banca Etruria, nuova smentita della Boschi nel giorno di presentazione del nuovo libro di De Bortoli a Milano, il libro che contiene appunto le notizie che coinvolgono l'attuale sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Nega tutto Maria Elena Boschi, nega di aver telefonato all'allora amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni per dirgli di comprare Banca Etruria, nega ciò che rivela l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e il sottosegretario continua ad annunciare querele. Credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle attacca. Roberto Fico chiede di togliere le deleghe a Boschi. Chiediamo la sfiducia della Boschi tramite il governo. Abbiamo avuto più volte motivo di non credere alla Boschi, l'ha dimostrato in questi anni, la conosciamo bene. E anche Forza Italia chiede che Ghizzoni venga convocato in audizione in Commissione Finanze alla Camera. Intanto sembra profilarsi l'accordo sulla legge elettorale per estendere l'Italicum al Senato, così come modificato dalla Consulta. Apertura dei 5 Stelle e di Forza Italia, anche se una parte degli azzurri è critica. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, come vi dicevo, torneremo a parlarne anche con un'intervista di De Bortoli a Radio 24. E poi l'altro tema grosso è la svolta nel diritto di famiglia. La Cassazione ha riscritto i parametri per l'entità dell'assegno di divorzio, una decisione destinata a produrre effetti importanti. Per gli avvocati matrimonialisti è un terremoto, per gli altri una rivoluzione. Comunque sia, è un cambio radicale di indirizzo legislativo che in futuro inciderà profondamente nel nostro modo di vivere. L'assegno di divorzio, che da 30 anni era collegato al tenore di vita matrimoniale, lascia il posto a un altro parametro, quello dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Secondo la Cassazione, il matrimonio non è più la sistemazione definitiva. Sposarsi, scrive la Corte, è un atto di libertà e autoresponsabilità. Concluso il matrimonio, il coniuge che prima di sposarsi era più povero non può pretendere di mantenere lo stesso livello di prima. Se non è autosufficiente, e lo dovrà dimostrare, gli verrà dato un assegno per il mantenimento, ma nulla di più. Una rivoluzione che non riguarderà solo i casi clamorosi, per intenderci gli anziani miliardari che si fanno impalmare, ma anche tante famiglie normali, dove spesso un divorzio, soprattutto per quei capifamiglia con stipendi appena decorosi, diventa l'anticamera della povertà e del degrado. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra poco, nel corso di Effetto Notte, capiremo più nel dettaglio di cosa si tratta con il presidente dei matrimonialisti italiani. Adesso Roma, nella capitale, indagini a tutto campo sul rogo che ha distrutto un camper uccidendo tre sole del Rom, indignazione anche da parte del capo dello Stato. È un crimine orrendo. Mi auguro che magistratura e forze dell'ordine riescano a individuare e a punire i colpevoli severamente. Così il presidente Sergio Mattarella dall'Argentina commenta il rogo doloso che la notte scorsa a Roma ha provocato la morte di tre sorelle all'interno del camper nel quale dormivano. La tragedia è avvenuta in Viale della Primavera, nel parcheggio di un supermercato a Centocelle, dove sostava il camper in cui viveva la famiglia Linovic di etnia Rom, i genitori e 11 figli. Tra loro Elisabeth, Francesca, Angelica, 28 e 4 anni, non ce l'hanno fatta a fuggire dall'inferno di fiamme. La Procura di Roma, che ha acquisito un video in cui si vede una persona lanciare una bottiglia incendiaria contro il camper, procede per omicidio volontario, oltre che per incendio doloso. I sopravvissuti hanno rivelato di aver ricevuto minacce di recente. I residenti della zona ammettono che da tempo c'è intolleranza nei confronti dei Rom a causa, dicono, di continui furti e di sporcizie ovunque. Si indaga dunque sul movente per capire se sia stato un gesto razzista o un atto maturato all'interno della comunità Rom. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da quello che si apprende in serata da fonti investigative, sembrerebbe essere esclusa al momento la pista razziale, dunque l'ipotesi più accreditata anche alla luce di testimonianze è quella di una vendetta maturata in ambienti nomadi. E restiamo a Roma, tornando sul tema dei rifiuti. I rifiuti in strada sono vergognosi, per questo abbiamo messo in campo una task force per evitare cassonetti stracolmi, così ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che invita anche il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, a sbloccare le autorizzazioni. Ma la Regione ribatte, nessuna richiesta di autorizzazione per nuovi impianti è arrivata dal Campidoglio. Per il ministro dell'Ambiente Galletti, il piano approvato dalla Giunta Capitolina non fornisce soluzioni concrete. Parla anche Manlio Cerroni, patron della discarica di Malagrotta, che adesso è chiusa, dice: senza di me a Roma il problema dei rifiuti se lo trascinerà per anni. E torneremo anche su questo argomento nel corso di Effetto Notte. Adesso andiamo sull'incendio di Pomezia. Domani si attendono i primi risultati delle valutazioni ambientali. Sono state intanto riaperte alcune scuole, sono arrivate le rassicurazioni dalla ministra della Salute Lorenzin. Oggi in Parlamento ha detto: non ci sono tracce di amianto nell'aria, circoscritte invece al capannone andato distrutto. La politica con segnali di apertura sulla legge elettorale, già c'erano stati qualche giorno fa tra PD e Movimento 5 Stelle, adesso Forza Italia è disposta a votare un testo base sulla legge elettorale che si limiti ad estendere al Senato l'italicum della Camera così come modificato dalla Consulta. Anche il Movimento 5 Stelle si dice disposto a sostenere quello che ormai si chiama il legalicum senza alcun correttivo, favorevole anche il Movimento dei Democratici e dei Progressisti, coloro che sono usciti dal PD. E c'è questo sondaggio SVG in crescita. Il Partito Democratico, dopo le primarie e i primi giorni di Matteo Renzi, da segretario rieletto. E quanto emerge appunto dal sondaggio SVG che circola al Nazareno, secondo la rilevazione settimanale del centro sondaggi, i Dem tornano sopra il 30,5%, recuperando tutto il calo dei mesi della scissione. Il Movimento 5 Stelle è distanziato di 3 punti, raccogliendo il 27,5% dei consensi, Lega al 13%, Forza Italia all'11,5% e Movimento dei Progressisti e Democratici al 3,7%. E adesso occupiamoci del lavoro autonomo, perché la riforma è in legge. Un via libera definitivo, quello del Senato, che arriva dopo quasi 15 mesi dal varo del provvedimento in Consiglio dei Ministri. Il testo, composto da 25 articoli, contiene diverse novità per il lavoro degli autonomi, dall'istituzione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, alla disciplina dello smart working, dalle tutele per pagamenti e contratti all'accesso ai fondi europei. In particolare, per lo smart working o lavoro agile, ci si basa su fasi, cicli e obiettivi senza precisi vincoli di orario di luogo di lavoro. Il lavoratore potrà essere a tempo determinato o indeterminato, avrà il diritto alla stessa retribuzione del lavoratore tradizionale e alla fissazione dei periodi di riposo. Dal 1 luglio 2017 diventa permanente l'indennità di disoccupazione, la cosiddetta DISCOL, per collaboratori coordinati e continuativi e per quelli a progetto. La legge attribuisce una delega al governo per aumentare le tutele in caso di malattia e maternità degli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso la scuola. È stata raggiunta un'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Economia. 15.100 posti dell'organico di fatto assegnati ogni anno a supplenti saranno trasformati in altrettanti posti dell'organico di diritto da coprire con docenti di ruolo con contratti a tempo indeterminato. A questi posti si aggiungono i posti rimasti liberi dopo i pensionamenti, circa 21.000, e i posti già vacanti e disponibili, circa 16.000. In tutto, quindi, quest'anno saranno disponibili circa 52.000 posti per le assunzioni a tempo indeterminato nella scuola. All'estero, Francia, con Macron proclamato oggi ufficialmente dal Consiglio Costituzionale Presidente della Repubblica, respinta dal suo movimento intanto la candidatura di Valls, che sta anche per essere espulso dal Partito Socialista. A ce jour, il n'est pas dans les critères d'acceptation. Respinto al mittente. Il tentativo di Manuel Valls, ex premier ed ex aspirante presidente francese socialista, di riciclarsi nel movimento politico di Emmanuel Macron en marche, frana miseramente sulle parole di Jean-Paul Delevoye, incaricato dallo stesso Macron di definire le liste di candidati per le elezioni parlamentari di giugno. Dopo aver rotto una prima volta coi socialisti, sostenendo la candidatura di Macron, Valls aveva pubblicamente firmato il divorzio dal suo partito 2 giorni dopo il trionfo del candidato di en marche, annunciando in radio la sua volontà di presentarsi col nuovo movimento, una scelta che non ha pagato. Il giorno dopo, Delevoye ha gelato ogni speranza. Al momento la richiesta di investitura di Manuel Valls non soddisfa i criteri per l'accettazione da parte di En Marche. Come se non bastasse, Delevoye aggiunge che per la circoscrizione di Valls c'è già una candidata e che la Repubblica En Marche non ha la vocazione di riciclare politici uscenti. Dietro le parole si intravede la vendetta servita fredda dello stesso Macron, con cui Valls ha avuto rapporti a tratti burrascosi quando quest'ultimo era premier e l'attuale presidente eletto ministro dell'economia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso sempre all'estero, con gli Stati Uniti, il numero uno dell'FBI, James Comey, è stato licenziato perché non stava facendo un buon lavoro, ha detto Donald Trump. Una decisione giusta al momento giusto, qui copiano effetto notte, gli fa eco il vicepresidente Mike Pence. Sapete che Comey stava indagando sul Russia Gate, aveva chiesto dei fondi per portare avanti le indagini sul Russia Gate, quindi rapporti, diciamo, piuttosto opachi tra Trump e la Russia. Il New York Times riporta che James Comey, appunto, giorni fa, prima di essere licenziato, stava proseguendo la richiesta di questi fondi. Venezuela, adesso, dall'inizio dell'ondata di proteste antigovernative che si susseguono nel paese da oltre un mese, 44 persone sono morte, quasi 2.000 sono state arrestate dalle forze di sicurezza, secondo bilanci presentati dall'organizzazione non governative non legate al governo. E direi con lo sport di aggiornarci, di capire come sta andando la partita, l'altra semifinale di Champions League, dalla quale dovrebbe venire fuori la squadra che sfiderà la Juventus. Giovanni Capuano, ciao. Eccomi Roberta, sta andando nel modo più imprevedibile possibile, perché si partiva dal 3-0 del Real Madrid all'andata, quindi diciamo erano tutti convinti che il Real fosse la seconda finalista. Invece siamo al 32esimo minuto, il risultato è 2-0 per l'Atletico Madrid, che dunque ha messo la gara in condizione di essere apertissima fino all'ultimo istante. È una partita che si gioca su ritmi indiavolati, questo era prevedibile, meno prevedibile che nei primi 16 minuti l'Atletico Madrid creasse 4 occasioni nitide e segnasse 2 gol. Il primo con un colpo di testa di Saúl Ñíguez al 12esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e poi al 16esimo un calcio di rigore di Griezmann per fallo di Danilo su Torres. Real Madrid che ha davvero ballato nei primi 20 minuti, ha rischiato anche di incassare il terzo gol che avrebbe equilibrato il risultato dell'andata. Poi piano piano la squadra di Zidane ha cercato di alzare il baricentro, aveva avuto un'occasione con un colpo di testa di Casemiro, sta cercando di controllare la furia dei colchoneros, e che sono all'ultima partita europea della loro storia nel Vicente Calderón, che è questo catino in cui l'Atletico Madrid in casa si trasforma. Però è un Real Madrid che sta ancora soffrendo ed è un Real Madrid che sta dimostrando di essere attaccabile e aggredibile, che è una buona notizia per la Juventus dovesse arrivare il Real alla finale di Cardiff del 3 giugno. La verità però è che, a differenza di quanto previsto, e cioè che questa sera semplicemente si sarebbe osservato il Real Madrid prossimo avversario della Juventus, la verità è che il Real Madrid soffre e in questo momento sta rischiando. C'è a terra Cristiano Ronaldo, c'è stato un contatto durissimo con un giocatore dell'Atletico Madrid, è una partita che si sta davvero trasformando in un'autentica battaglia, nel vero autentico spirito del derby di Madrid. Il risultato all'inizio del 34esimo minuto è 2-0 per l'Atletico Madrid di Simeone, con Cristiano Ronaldo a terra. Adesso c'è l'intervento dei sanitari, si è quasi accesa una mischia tra i giocatori del Real e dell'Atletico Madrid. Partita davvero bellissima e qualificazione assolutamente in bilico. Partita molto vivace, grazie Giovanni Capuano, poi sentiremo come procede più in là. Invece adesso vediamo come procedono coloro che viaggiano con gli aggiornamenti di viabilità, e poi cominciamo ad affrontare i vari temi a partire proprio dal caso Unicredit Banca Etruria. Vedo anche i vostri messaggi, potete continuare a mandarli sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Clotilde dice: io credo a De Bortoli, la Boschi e il Macron dei Noantri. Questo si riferisce a Renzi, dice: non credo che conoscano cosa sia la verità. Comunque adesso ovviamente Boschi smentisce, Unicredit ha mandato ieri una nota in cui dice, almeno attraverso l'ANSA, che smentisce questa notizia, eventuali pressioni. De Bortoli lo avete sentito e lo risentiremo. Dopodiché il silenzio è quello di Ghizzoni. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tutte le notizie più importanti in 60 minuti, con me Roberta Giordano, con voi all'ascolto e con i vostri messaggi, la vostra interazione sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per messaggi e WhatsApp. Adesso allora, tra poco saluterò il primo ospite, così cominciamo ad affrontare anche il primo tema, il tema in primo piano. Non perdete Effetto Notte tutte le sere dalle 21 alle 22 per essere aggiornati su tutti i fatti principali, in modo che un giorno non potrete dire: io non lo sapevo. Tra poco allora torneremo sul caso Unicredit Banca Etruria, i vostri messaggi. Tanto ringrazio Francesco da Udine per il suo bel messaggio, poi qualcuno già scrive sul divorzio, di cui parleremo tra poco, di questa rivoluzione dovuta a una sentenza della Cassazione relativa all'assegno di divorzio. E poi invece Rocco dice: il politico che senza peccato scagli la prima pietra, mi riferisco alla questione Boschi. Allora tra poco mi riferisco anch'io alla questione Boschi trattandola, ma se non avete acceso puntualmente le 21, queste sono le notizie principali. Bufera su Maria Elena Boschi, appunto per la vicenda rivelata dal libro di De Bortoli. Ho già chiarito tutto in Parlamento, dice lei, e l'ex direttore del Corriere della Sera De Bortoli dice: sono tranquillo e sicuro delle mie fonti. Brucia un camper di una famiglia rom nella periferia romana, ipotesi vendetta tra nomadi. In video una persona che lancia una bomba molotov. Mattarella dice: bisogna punire severamente chi compie certi atti. Cassazione con la sentenza decide che l'assegno di divorzio viene archiviato in modo, nel senso tradizionale, non è più il tenore di vita essere l'unico parametro, l'unico criterio, ma è la valutazione dell'autosufficienza. Sulla legge elettorale, segnali di apertura del Movimento 5 Stelle, ma anche di Forza Italia, che danno il via libera per l'estensione dell'Italicum al Senato. E poi, per quanto riguarda l'emergenza rifiuti a Roma, la sindaca della capitale Raggi si difende, mette in campo una task force contro i rifiuti in strada, ma la regione e il ministero sono contro di lei, dicono non dà soluzioni. Il presidente americano Trump si lura il capo dell'FBI Comey, licenziato, dice, perché non stava facendo un buon lavoro, e il lavoro che stava facendo era quello di indagare sul Russia Gate. Annuncio del governo, per la scuola sono previste 52.000 assunzioni stabili. E poi, per la partita Atletico Madrid-Real Madrid, per il momento conduce l'Atletico per 2-0. Ed eccoci qui, dunque, sul caso emerso dalle rivelazioni anticipate ieri, ne abbiamo parlato, dal libro di Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, e che ha scatenato subito la polemica politica, in particolare lo scontro, mai del tutto subito naturalmente, tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Rivelazioni che si trovano in un capitolo del suo ultimo libro, di Ferruccio De Bortoli, che si intitola Poteri Forti, che parlano queste rivelazioni della richiesta, di una presunta richiesta dell'ex ministra Boschi, oggi sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, richiesta all'ex amministratore di Unicredit Ghizzoni di acquistare Banca Etruria per salvarla dal fallimento. Ieri però Maria Elena Boschi, e ne abbiamo dato conto, ha smentito recisamente e lo ha fatto nuovamente oggi in conferenza stampa. Vogliamo sentire questo passaggio? Sulla vicenda sono già intervenuta in Parlamento il 18 dicembre del 2015 e ribadisco, confermo quanto ho detto in Parlamento rispetto alla vicenda. Credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali e quindi saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti. Ma il Movimento 5 Stelle è partito immediatamente all'attacco, ne ha chiesto le dimissioni della Boschi. Sentiamo per esempio questo attacco durissimo di oggi da parte di Battista del Movimento 5 Stelle. È una bugiarda cronica, è Gentiloni che ci deve mettere la faccia e basta. Gentiloni deve battere un colpo, non è che può fare il verginello immacolato che non dice nulla, deve parlare. Il sottosegretario Boschi è sottosegretario del suo governo. Devi dire da che parte sta, se sta dalla parte dei cittadini truffati o da questo sistema familistico, se sta dalla parte appunto dello Stato italiano o dalla parte di questa arroganza boschirenziana veramente vergognosa, perché sono degli arroganti. E ricordiamo che il fatto in sé, se ci fossero state davvero queste ingerenze da parte della Boschi, non è penalmente rilevante, diventa una questione di opportunità politica, perché la Boschi in questo caso confermerebbe un certo conflitto di interessi, perché il padre, che ora è indagato per il crack di Banca Etruria, era vicepresidente della banca. Ieri sera vi leggevo proprio in presa diretta, qui effetto notte, un'agenzia dell'ANSA che era arrivata in quel momento, che riportava da fonti di Unicredit una smentita sulle presunte pressioni, mentre, come vi dicevo prima, quello che fa più rumore in questo momento è il silenzio dell'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni. Per il momento non dice nulla. Nel frattempo, però, l'avete sentito, presentando in anteprima il suo libro, oggi ha parlato De Bortoli. Sentiamolo. Io sono assolutamente convinto della bontà di quello che ho scritto. Non ho parlato di pressioni, ma ho parlato di un interessamento. Penso che si debba anche uscire da questa ipocrisia, insomma. I personaggi politici possono e debbono occuparsi delle vicende economiche e bancarie che riguardano specialmente il territorio dal quale provengono, quindi io non ci trovo nulla di particolarmente strano. Ovviamente poi ci sono dei conflitti di interesse, ci sono le dichiarazioni che sono state rese in Parlamento, ma un conto è interessarsi, preoccuparsi, anzi mi stupirei che questo non avvenisse. Un altro conto è fare delle ingerenze o delle pressioni. Comunque quello che è scritto è lì, quindi io me ne assumo tutta la responsabilità, sono assolutamente convinto della bontà di quello che ho scritto. Scrive l'ascoltatore Mauro, potete continuare sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. De Bortoli ha buttato un boccone appetitoso nel recinto dei politici e tutti subito a litigarselo come cani, tutto già visto. L'antidoto a queste sceneggiate, dice, sarebbe l'unica cosa che i politici evitano, cioè la trasparenza. E c'era alla presentazione del libro di De Bortoli oggi anche la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Che lo ha intervistato poco prima che entrasse in sala a presentare il libro, no? Sì, esatto. Ed ha anticipato alcuni poi dei temi che ha toccato dopo, e devo dire che inevitabilmente nella breve chiacchierata che abbiamo avuto prima della presentazione, il tema ovviamente da ottimo giornalista qual è, non poteva che essere quello del caso Boschi e di questo capitolo, che è il capitolo diciamo che ha a che fare con il governo Renzi, del suo libro Poteri Forti o Quasi, in cui tra l'altro si chiama in causa anche la massoneria e anche questo nella vicenda Banca Etruria è un passaggio direi importante e delicato. Raffaele, allora sentiamo uno stralcio della tua intervista. Quello che sapevo l'ho scritto, insomma, gli elementi essenziali li ho descritti nel libro. Io ho più di 160 processi, quindi insomma, sono abbastanza abituato a difendere quello che scrivo, quindi sono abbastanza tranquillo. Usciamo da questa ipocrisia. È abbastanza naturale che un personaggio politico si occupi delle vicende bancarie ed economiche che riguardano il proprio territorio. È assolutamente normale, no? Anzi, mi stupirei del contrario. Però un conto è occuparsene e magari rappresentare ad un banchiere importante la propria così apprensione, il fatto che naturalmente sono vicende che coinvolgono azionisti, obbligazionisti, depositanti. Diverso è ovviamente esercitare delle ingerenze, delle pressioni, io non lo so, io ho scritto semplicemente che c'è stato un interessamento. Nell'ultima riga del capitolo di cui si parla, a proposito anche della presenza della massoneria nella vicenda, anche un po' MPS e poi anche un po' in questa vicenda, unendo i puntini, quale disegno si compone come nella settimana enigmistica? Compone un disegno che in questo paese esistono dei poteri, come ho scritto, trasversali e anche occulti. In altri paesi, per esempio, il ruolo della massoneria è molto più chiaro. Da noi non se ne parla. Io ti pongo semplicemente questo interrogativo. Questo ha detto De Bortoli a Raffaella Calandra, no Raffaella? Quindi lui dice in realtà, a parte poi aver parlato anche della massoneria, che già quando fu il governo Renzi disse c'è odore un po' intorno a lui di massoneria. Però ritornando invece al caso Boschi, a Unicredit, a Banca Etruria, lui ti ha detto è naturale che un politico, soprattutto di un certo livello, si occupi delle banche del proprio territorio, però in questo caso, dice, ci sono state delle ingerenze. E la sua riflessione è questa: innanzitutto chiaramente la totale diciamo garanzia rispetto alla bontà delle sue fonti e il fatto di essere anzi desideroso di che l'annunciata querela della sottosegretaria Boschi arrivi, ha detto, per poter così in un processo anche futuro raccontare e poi spiegare il tutto. Dall'altra parte quindi c'è una parte, l'interessamento che i politici rispetto anche a banche, soprattutto a banche del territorio, hanno e anzi devono anche avere, ha ricordato appunto il direttore De Bortoli. Dall'altra parte la posizione dell'allora ministra Boschi, oggi sottosegretario, è diversa, perché si trattava della banca di cui il padre era vicepresidente e perché lei stessa appunto in Parlamento ha più volte assicurato di non essersi mai occupata della vicenda Banca Etruria, per cui si tratta da una parte di una questione che può avere a che fare con conflitto di interessi, dall'altra parte con quanto già dichiarato pubblicamente, quindi con la conferma o meno di quello che ha detto. Tu ricordavi prima il silenzio appunto dell'ex amministratore delegato Ghizzoni. Quello che per ora da Unicredit si sa è un'indiscrezione diciamo ufficiosa che ieri di fonti vicine alla banca che avevano smentito pressioni. Però appunto De Bortoli ha sottolineato che quello, e infatti nella pagina del libro che ho davanti a me, si parla affatto di pressione, ma soltanto di un interessamento. Ecco, quindi una distinzione anche linguistica è importante. È importante, che poi chiaramente bisogna capire anche come valutarla, perché un interessamento da parte dell'allora ministro rispetto ad un amministratore delegato di un'importante banca perché si occupi di un istituto di credito di cui il padre era vicepresidente, insomma, chiaramente poi bisogna vedere come intenderlo questo interessamento. Però da parte di Ghizzoni non c'è c'è stata ancora nessuna presa di posizione ufficiale. Questo è stato un tema anche ricordato nella presentazione anche un altro ex direttore del Corriere, Paolo Mielli, che era presentava appunto il libro. Ce l'abbiamo, di ce l'abbiamo questo passaggio, Raffaella, sentiamo anche cosa ha detto Mielli a questo proposito. Lo voglio dire apertamente, che se domani mattina non vedo un'intervista di Ghizzoni che spiega le cose che sto dicendo su un qualche giornale, non penso gran bene di Ghizzoni, capito? A questo punto penso che rimarrei perplesso, perché quando si entra in questo ballo, bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo. È in effetti un silenzio un po' assordante quello di Ghizzoni. Giorgio, l'ascoltatore, dice: silenzio che sa di conferma quanto male ha fatto l'ingerenza della politica nell'economia. Guido dice: ma dove sta il problema? Aver chiesto a una grande banca di cercare di salvarne una piccola per avere il minor danno possibile per tutti è una cosa normalissima, se fatta senza sotterfugi, corruzioni, eccetera. Quante volte la politica è intervenuta per vendere grandi aziende ai privati e viceversa? E qui dicevamo, però, ci potrebbe essere questo conflitto di interessi appunto del padre ex vicepresidente. Per chiudere, Raffaella Calandra, dico solo questo, che De Bortoli, fra le varie considerazioni che ha fatto oggi, ha detto anche però la richiesta di dimissioni della Boschi, per la Boschi, mi pare eccessiva. Ecco, per chiudere. Ma lui ha detto, chiaramente ha un ruolo diverso, diciamo, lui fa il suo ruolo, il suo compito di giornalista, ha portato alla luce questa informazione che aveva riguardante il 2015, per di più con grande onestà intellettuale ha anche aggiunto di non avere altri dettagli rispetto a questo incontro e a questa richiesta della Boschi a Ghizzoni, nel senso che anche le date sono fondamentali, perché in quegli anni in quell'anno sono avvenuti passaggi cruciali per la banca Etruria, né ha detto altri dettagli rispetto alle modalità con cui questa richiesta è avvenuta, e questo anche cambierebbe molto, diciamo, la situazione, perché un conto è un incontro ad hoc, ad esempio, un conto è in un altro tipo di situazione. Certo. Rispetto poi al discorso politico è un altro tipo di scelta che ha a che fare con i profili di ciascuno. L'unica cosa che volevo ancora aggiungere, sì, Roberta, è quel passaggio fatto nell'intervista con De Bortoli alla Massoneria, e c'è nel suo libro, non è soltanto, diciamo, generico, ma ha a che fare anche con questa vicenda, nel senso che come già un po' nella vicenda MPS, quindi altra banca, anche in questo caso con la banca Etruria, ed è una questione che venne fuori tempo fa anche con le scalate bancarie ai tempi dei cosiddetti furbetti del quartierino, c'è stata più volte, diciamo, un'ombra di personaggi vicini al mondo della massoneria che si sono interessati, diciamo, di questioni riguardanti vicende bancarie, e questo è un tema che ha a che fare, oltre che, diciamo, tu ricordavi il celebre editoriale di De Bortoli sul governo Renzi, ma ha a che fare con, diciamo, una scarsa trasparenza di vicende e alcuni poteri forti o quasi, per dirla col titolo del libro di De Bortoli. Grazie Raffaella Calandra, vedremo che piega poi prenderà questa vicenda. Intanto però dobbiamo prenderci questa pausa mentre voi continuate con i vostri messaggi. Gil, che dice: gli scheletri negli armadi di politici e banche sono talmente tanti che nemmeno questa notizia durerà a lungo. Vedremo. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. La natura di prima mano vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie. Avete sentito le principali all'inizio, il riassunto come sempre dovete accendere puntualmente alle 21, e poi abbiamo parlato molto ampiamente del caso scoppiato nel dibattito politico dopo le rivelazioni nel libro di Ferruccio De Bortoli, che ha presentato poi oggi ufficialmente, che riguarderebbero l'ex ministra Boschi, attuale sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Ancora vedo su questo argomento i vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Camillo, che scrive: ero presente alla presentazione del libro oggi, ho letto quella famosa pagina 209, perché solo una frase in una pagina del libro, infatti l'abbiamo detto, De Bortoli dice: non ha scritto un libro sulla Boschi, nessuno l'ha detto. Poi dice: quello che dovrebbe parlare è Ghizzoni, e anche questo abbiamo detto, e ha chiesto anche forze politiche di sentirlo in Parlamento. I 5 Stelle, scrive ancora, poi cavalcano qualsiasi cosa e quindi tutto sfuma. Roma. Francesco dice: la Boschi, quereli o De Bortoli riuscirà a dimostrare le sue affermazioni e in tal caso Maria Elena dovrà considerare seriamente l'idea di dimettersi, oppure no, e allora sarebbe giusto che le versasse un bel risarcimento. Però adesso, a proposito invece di assegni, parleremo dell'assegno di divorzio, delle novità decisamente consistenti che lo riguardano. Vedo già i vostri messaggi, per esempio questo ascoltatore che scrive: Cosimo da Pistoia, divorzio, finalmente il legislatore aggiorna la legge, penalizzava in maniera spropositata uno dei due coniugi, è difficile vivere nella normalità, figuriamoci sopravvivere da una rottura del matrimonio, non dimentichiamoci comunque di tutelare eventuali figli. Adesso capiamo nel dettaglio, vi ricordo velocemente le notizie principali. Il caso Unicredit, Banca Etruria, Maria Elena Boschi torna a difendersi e a smentire presunte ingerenze. De Bortoli, alla presentazione del suo libro, dice: sono tranquillo e sicuro delle mie fonti. E poi divorzio, cambiano i parametri per l'assegno, ne parleremo tra pochissimo. L'incendio doloso del camper a Roma, uccise tre sorelle rom, forse una vendetta tra nomadi. Il presidente Mattarella dice: un crimine fuori dal genere umano. Legge elettorale, segnali di apertura, Forza Italia e Movimento 5 Stelle danno il via libera per l'estensione dell'Italicum al Senato. L'immondizia a Roma, la sindaca Raggi si difende, in campo una task force contro i rifiuti in strada, Regione e Ministero però sono contro, Virginia Raggi dicono non dà soluzioni. Scuola, annuncio del governo, ci saranno 52.000 assunzioni di insegnanti. E poi per lo sport, Giro d'Italia, quinta tappa a Gaviria, e per la Champions League sono in campo Atletico Madrid, Real Madrid, e per il momento conduce l'Atletico per 2-1. Quindi vi dicevo, a proposito di divorzio, arriva questa sentenza della Cassazione che stravolge una regola che era in vigore da 30 anni, ovvero quella che basava l'entità dell'assegno dovuto al coniuge richiedente sul parametro del tenore di vita matrimoniale, cioè del tenore di vita che aveva avuto durante il matrimonio. Da oggi invece il parametro di spettanza sarà basato sulla valutazione della indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio, ha stabilito la Cassazione con questa sentenza, non è più la sistemazione definitiva. Sposarsi, scrive la Corte, è un atto di libertà e autoresponsabilità. Ed è presentata praticamente come una rivoluzione copernicana. Non so se lo conferma Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Buonasera Gassani. Buonasera a voi. Quindi è davvero una rivoluzione copernicana. Che cosa cambia appunto nel dettaglio? Assolutamente sì, è una rivoluzione, un vero e proprio terremoto nel diritto di famiglia italiano, perché noi per tanti anni, dal varo della legge che ha introdotto il divorzio, quindi dal 1970, abbiamo seguito sempre come parametro di quantificazione l'assegno di mantenimento di divorzio il tenore di vita. Cioè qual era praticamente la ricchezza di una famiglia, le potenzialità economiche. Per esempio noi avvocati in tribunale dovevamo portare i documenti che attestavano i viaggi, le vacanze, i gioielli, pellicce, piuttosto che l'appartamento di lusso, la golf, tutto. Dovevamo dimostrare al giudice, per ottenere l'assegno, tutto questo. Oggi con questa sentenza, che si muove da un principio morale del matrimonio, che già nel 1990 la Cassazione aveva in qualche modo sancito, cioè il matrimonio non è un'arrampicata sociale, non è una sistemazione, non è un affare. Il matrimonio è una scelta d'amore, di coraggio, di libertà, di autodeterminazione. E questo perché? Perché purtroppo ci sono state tantissime cause in cui gli addetti ai lavori si sono scontrati con due correnti di pensiero, cioè chi riteneva che in ogni caso, a prescindere dalle ragioni della crisi del matrimonio, a parte l'infedeltà, comunque al coniuge più debole dovesse essere garantito un assegno proporzionato al tenore di vita. Negli ultimi anni, per la verità, gli assegni sono diminuiti nel nostro paese, perché negli anni 80 erano al 60% dei divorzi, nel 60% dei divorzi veniva riconosciuto un titolo, quindi un assegno. Nel 2016, quindi pochi mesi fa, soltanto nel 19% dei casi è stato riconosciuto un assegno, e quasi sempre nel sud. Allora, voglio dire, sta cambiando la mentalità degli italiani e cambia ovviamente la cultura giuridico-giudiziaria del nostro paese. E quindi è evidente che non è che viene eliminato il diritto all'assegno di mantenimento. Se l'altro coniuge più debole non ha assolutamente mezzi di sussistenza, l'assegno viene riconosciuto, ma non sarà parametrato con l'assegno di vita. Se poi invece lavora, ha un lavoro che determina uno stipendio, insomma, dove è possibile, insomma, andare avanti, non ha proprio nessun aiuto, nessun assegno perequativo. Quindi una rivoluzione vera ma veramente una, un'epoca che cambia nel nostro paese. Gassani, leggo due messaggi agli antipodi, uno di un uomo e uno di una donna. Tobia da Padova scrive: ottima la sentenza della Cassazione, in controtendenza agli standard occidentali, dice aspirata agli Stati Uniti e Nord Europa, che in quei paesi stanno avendo effetti disastrosi. Mentre Laura dice: un'altra picconata dopo la riduzione della pensione di reversibilità. E quindi di solito, perché diciamo il coniuge più debole, se va a san dire, no? Senza ipocrisia, sì, in genere la donna. Dico, no? Mi permetto di dire una cosa, proprio con cuore in mano, non è fare una questione di genere. Io penso che è superato il tempo del genere, parliamo di persone, perché per esempio questa sentenza avrà delle ricadute anche sulle unioni civili, cioè sulle unioni di omosessuali. Antonio non potrà mantenere Michele solo perché Michele ha fatto questa scelta. Beh, siccome sappiamo benissimo che ormai le unioni civili e matrimonio passano, sono praticamente la stessa cosa, e c'è un comma 20 dell'articolo della legge 76 che equipara in tutto e per tutto, vediamo che non è un problema uomo-donna, uomo-donna, coppie dello stesso sesso, cioè in tutti i casi in cui si crea un sodalizio familiare come questo, non è più possibile approfittarsene. Ovviamente, attenzione, non stiamo dicendo che l'assegno di ostile debba essere eliminato, non lo ha detto la Cassazione, quando ci sono i presupposti esso deve essere concesso, ma non ha niente a che vedere con i diritti dei figli. Chiaro, ecco appunto, figli, appunto ecco i figli il punto distintivo, no? Gassani. Sì. E sui figli è tutta un'altra storia. I figli hanno il diritto di conservare la possibilità e le chance che comunque la famiglia avrebbe potuto garantire loro se fosse stata unita. Per cui se un figlio è iscritto a una scuola privata, piuttosto che fa un corso di inglese o di musica o è abituato a fare viaggi, è chiaro che il giudice da questo punto di vista sarà piuttosto generoso. Per cui negli ultimi anni si è registrata una doppia giurisprudenza, quella a tutela forse eccessiva dei figli, addirittura oggi a 40 anni un figlio può fare causa ai genitori per avere il mantenimento, e c'è stata una compressione di diritti del coniuge più debole. Il coniuge più debole non significa sempre donna. Io ho avuto anche casi in cui gli uomini ricevono l'assegno di mantenimento dalle mogli, certo. Quindi non è la legge, non è che dice uomo o donna, c'è chi è più ricco e chi è più o meno. Chiarissimo, grazie Gianettore Gassani. Grazie, buon lavoro. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo molto velocemente. Roberta Giordano sempre con voi. Il caso Unicredit, Banca Etruria, Marilena Boschi oggi è tornata a smentire presunte ingerenze che sono emerse dalle rivelazioni del libro di De Bortoli, che oggi alla presentazione del suo libro ha detto: sono tranquillo e sicuro delle mie fonti. Divorzio, ne abbiamo appena parlato, cambiano i parametri per l'assegno, non sarà più legato al tenore di vita matrimoniale ma alla valutazione dell'autosufficienza. L'incendio doloso del camper a Roma, uccise tre sorelle rom, forse una vendetta tra nomadi, Mattarella dice un crimine fuori dal genere umano. Legge elettorale, ci sono i primi segnali di apertura di Forza Italia e Movimento 5 Stelle per l'estensione dell'Italicum al Senato. L'immondizia a Roma, ne parleremo tra pochissimo. Scuola, annuncio del governo, ci saranno 52.000 assunzioni per gli insegnanti a tempo indeterminato. E poi c'è il calcio, la Champions League, Atletico Madrid e Real Madrid, per il momento sempre l'Atletico per 2-1. Adesso dunque, dicevamo, parliamo dell'emergenza rifiuti a Roma, e fra l'altro c'è stato un cambio di vertice in AMA, cioè l'azienda che si occupa, la società che si occupa della gestione dei rifiuti nella capitale. Sapete che in questi giorni è stato anche questo terreno di scontro, sia di disagio naturalmente dei cittadini romani, sia terreno di scontro in particolare sempre dal Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Di questo ci parla la nostra Alessandra Schepisi in diretta proprio dalla capitale. Cara Alessandra, quali sono gli aggiornamenti su questa vicenda piena di immondizia? Sì, diciamo. Roberta, mentre resta la promessa di pulire la città entro il fine settimana, speriamo che verrà mantenuta, la polemica continua a infuriare tra PD 5 Stelle, tra Comune e Regioni. Oggi ha parlato anche il ministro dell'Ambiente Galletti, che in un questo time alla Camera ha definito il piano approvato dalla Giunta a Capitolina sostanzialmente inadeguato e insufficiente, un piano che si pone sì obiettivi a lungo termine come raggiungimento della raccolta differenziata al 70% entro il 2021, sul quale appunto puntano molti 5 Stelle, ma che poi nell'immediato, secondo il ministro, non affronterebbe l'emergenza attuale. Il punto, dice Galletti, è che c'è una carenza di impianti in una città come Roma, che produce 1.700.000 tonnellate di rifiuti ogni anno, ma in cui la raccolta in raccolta differenziata vanno solo 700.000 tonnellate. Allora possiamo sentire il ministro. La situazione del Lazio è anomala rispetto alle altre regioni, perché Roma produce più del 50% dei rifiuti che produce l'intera regione del Lazio. Quindi è chiaro, c'è una carenza impiantistica che è evidente. La raccolta differenziata è oggi di poco superiore al 40%, quindi ancora indietro rispetto ad altre zone del territorio. Si avvia smaltimento circa 500.000 tonnellate annue. Smaltendo queste 500.000 tonnellate si portano a saturazione tutti gli altri impianti a livello regionale e anche a livello extra regionale. Questo quindi il ministro dell'Ambiente Galletti. Sì, Roberta, poi continua anche lo scontro tra Comune e Regioni con questo scambio di accuse. Secondo la Raggi, la Giunta Zingaretti non avrebbe previsto impianti di trattamento a sufficienza, non autorizzato la capienza di quelli esistenti e bloccato alcune autorizzazioni. La Giunta risponde: nessuna richiesta di autorizzazione è mai arrivata dal Comune. Qualcuno spieghi a quali impianti il sindaco Raggi si riferisce. Insomma, un rimpallo di responsabilità. Zingaretti ha pure detto: comunque siamo aperti, siamo disponibili a delle proposte. E intanto, proprio pochi secondi, ti dico che insomma a Roma i cassonetti sono ancora pieni in alcune zone della città. Senti, insomma, Alessandra, a questo proposito ricordo molto velocemente, poi ci dobbiamo lasciare, che Renzi ha detto: io e con volontari del PD verremo domenica a pulire con le pettorine gialle. Un ascoltatore simpaticamente dice: se Renzi e compagni domenica puliscono bene, consiglio alla Raggi di assumerli all'AMA. Molto bene, ci lasciamo così. Grazie Alessandra Schepisi. Buonasera, grazie. Ciao Alessandra. E agli ascoltatori che chiedono se la legge, quella riforma della segno di divorzio sia retroattivo, ebbene no, non è retroattivo perché non è una legge, è una modifica con una sentenza della Cassazione, però in caso si può anche cercare di fare ricorso e cercare di riaprire la causa. Con questo ci lasciamo, poi sapete che ritorno brevemente a aggiornarvi alle 22:00.